Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a tutti a Salva Danaio. Arriva per molti, se non per tutti, un momento nella vita in cui si sente l'esigenza di fare una sorta di pit stop della propria carriera, fare i conti con le proprie soddisfazioni e insoddisfazioni, con i sogni realizzati e le ambizioni che ancora si vorrebbero invece perseguire. Certo, però, direte voi, da una parte ci sono i sogni, dall'altra parte c'è la realtà, c'è il contesto economico e sociale in cui siamo immersi, guardiamo ai mercati che ci danno due giorni di tregua e poi ci spaventano di nuovo come è accaduto ieri in un copione che non fa che ripetersi da mesi. E come molti di voi staranno pensando, questo momento non è proprio quello giusto per mettersi alla ricerca di qualcosa di diverso, soprattutto se abbiamo la fortuna e la garanzia del posto fisso. C'è al contrario chi fa notare che è proprio in periodi di crisi come questo che c'è la possibilità di far nascere cose nuove, di trovare spazi che in altri momenti non ci si potrebbe ritagliare. Insomma, pensare ad una vita nuova e anche a nuovi mestieri e professioni. Ne parliamo questa mattina a Salva Danaio, con un nuovo appuntamento con quelle che abbiamo chiamato le letture sotto l'ombrellone. Andiamo infatti a scoprire un libro che si intitola proprio Come fare soldi in periodi di crisi, e lo facciamo insieme ad uno dei suoi autori. Questo è un libro dove non ci sono, lo diciamo subito, suggerimenti per fare investimenti mirabolanti capaci di triplicare miracolosamente il nostro risparmio in poco tempo come i pani e i pesci. C'è però un approccio molto pratico su come affrontare il mondo del lavoro, come individuare i nostri talenti e le nostre capacità e metterle al servizio del nostro percorso professionale, magari cambiarlo radicalmente. Chissà in quanti in questo momento sono alla ricerca di nuovi stimoli. Speriamo di trovare tutte queste idee in questo libro. Io saluto subito uno dei due autori, l'altro non è potuto essere con noi questa mattina, quindi grazie ad Angelo Deiana. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori di Salva Danaio. Angelo Deiana ha scritto tantissimi libri su questo e anche su altri argomenti, ha molti impegni sia professionali che anche di altro tipo, è presidente del comitato scientifico di COLAP, che è il coordinamento liberi associazioni professionali, oltre che dirigente del gruppo Montepaschi, e questo libro lo ha scritto insieme a Roberto Barbato, che invece è un esperto del settore immobiliare, anche lui ha una lunga carriera professionale che si è svolta in tanti settori, insomma due persone. Barbato è proprio presidente e amministratore delegato di Frim Holding, una rete leader nel settore dell'intermediazione immobiliare e creditizia in Italia, però non si parla né di immobili né esattamente di queste professioni in questo libro, si parla proprio di un approccio molto generale, ci sono tanti spunti che sono utili soprattutto ai giovani, ai giovanissimi che magari hanno terminato l'università, si stanno mettendo anche adesso alla ricerca del loro posto di lavoro. Non è detto che trovino naturalmente quello a tempo indeterminato, anzi questa prospettiva si fa sempre più difficile nel nostro paese per i ragazzi, per cui sicuramente anche per loro ci sono molte idee. E perché il sottotitolo appunto del libro, lo ricordo, è Trovare lavoro, fare business cambiando professione o trasformando le crisi in opportunità. Allora, raccontateci la vostra esperienza all'800240024. Potete considerarvi fra quei coraggiosi e lungimiranti che hanno fatto della crisi un'opportunità di crescita non solo professionale ma anche umana, oppure ci state pensando anche perché magari il vostro posto di lavoro in questo momento è in bilico, ma volete lasciare spazio alla paura, allo scoraggiamento, volete rimboccarvi le maniche e magari guardarvi intorno e capire se ci sono delle opportunità, come si fa anche ad intercettarle? Raccontatecelo all'800240024 oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. E ci sono già alcuni commenti che sono arrivati sul profilo Facebook della nostra trasmissione salvadanaio-radio24. Qualcuno già esprime un po' così dei commenti coloriti sull'argomento, ma probabilmente anche la sfiducia sta avendo un po' la meglio tra qualcuno. Ma se volete raccontateci anche questo, siamo sicuramente siamo sicuramente appunto molto disponibili a raccogliere anche considerazioni di questo tipo. Un breve giro in borsa per vedere cosa sta succedendo, visto che dopo lo sfascio di ieri pomeriggio, oggi le borse sembrano aver completamente già accantonato tutte quelle preoccupazioni che avevano travolto gli investitori appunto ieri nella seconda parte della seduta dopo la riunione della Banca Centrale Europea. Oggi la borsa prova a rimbalzare e a recuperare quasi tutto, più 3,23% sul FTSE MIB a Piazza Affari, più 1,86% su Parigi, Francoforte più 1,61, Londra guadagna un punto, l'euro sul dollaro è 1,22,41, lo spread fra BTP e Bund è sceso di nuovo ben al di sotto dei 500 punti base e siamo a 482 in questo momento, quasi completamente cancellato il pomeriggio di ieri. Chissà se il mercato ha letto un po' meglio le dichiarazioni di Draghi oggi. Così le interpreta diversamente, con un po' più di ottimismo rispetto a quanto si è fatto ieri di primo acchito. Comunque noi lasciamo la borsa e andiamo a chiacchierare con il nostro Angelo Deiana, il nostro ospite di questa mattina, l'autore del libro che vi vogliamo presentare, perché appunto, come ricorderete, da qualche settimana abbiamo, nel tentativo di alleggerire le nostre trasmissioni, anche se come vi dicevo ieri e l'altro ieri non ci siamo riusciti ancora perché i temi finanziari sono ancora molto importanti, allora abbiamo cominciato appunto ad intraprendere questo percorso per suggerirvi delle letture da portarvi magari sotto l'ombrellone, naturalmente sempre letture che hanno qualche tema di carattere finanziario. Come fare soldi nei periodi di crisi, Deiana? Magari sicuramente stando un pochino lontano dalla borsa adesso, che ne pensa? Oppure anche la finanza potrebbe darci qualche spunto per individuare qualche professionalità che può essere sviluppata? Ma sicuramente tutto, la globalità, tutto il processo complessivo di sviluppo e soprattutto di cambiamento, di velocissimo cambiamento che noi stiamo notando sempre più negli ultimi anni, può offrire spunti, e credo che lei abbia toccato uno dei punti fondamentali che costituiscono il paletto di riferimento di questo libro. Deiana, ormai... mi scusi, siccome noi con i collegamenti telefonici siamo sempre sfortunati, sta per caso utilizzando un viva voce, un auricolare, si può mettere un po' meglio vicino al adesso va meglio? Eccolo là, vi becco sempre quando mi volete fregare con il microfono, con il telefono. Ecco, riprendiamo allora il nostro discorso. D'accordo, le dicevo, lei ha toccato uno dei punti fondamentali. Il punto fondamentale è che nessuno ha la palla di vetro, queste sono fasi di grande cambiamento, e anche il libro, nelle intenzioni mie di Barbato, non vuole essere una guida dogmatica alla sopravvivenza o addirittura al successo nei periodi di crisi, ma invece vuole essere proprio l'apertura di un confronto, un mettersi in discussione con il lettore. Perché? Perché il primo principio è mai credere ai falsi guru, quelli che hanno il titolo in borsa che vince sempre, che sanno quando entrare, sanno quando uscire, perché quello che non si capisce è perché lavorano ancora. E perché non sono ricchissimi e si godono la loro ricchezza da qualche parte. Invece cambiare lavoro, trovarlo, fare business e provare a trasformare una crisi durissima in opportunità è probabilmente più un lavoro d'agricoltore, è un lavoro di semina profonda, ed è un lavoro dove bisogna avere, come dice sempre Barbato, il coraggio di cambiare. Se una cosa non funziona, bisogna cambiarla, e bisogna cambiarla subito. Io faccio sempre un esempio che è citato anche nel libro. Time nel 1982 mette in copertina come uomo dell'anno il personal computer, che come noi tutti sappiamo era e sarebbe stato probabilmente un simbolo di cambiamento straordinario del nostro modo di essere anche uomini. Dentro questo articolo c'era una previsione drastica degli esperti di mercato del lavoro, che dicevano che la versione di manutentore di hardware era quella che rappresentava il futuro dei prossimi 10 anni. Dopo 2 anni non c'era più un manutentore di hardware, perché quando i computer hanno cominciato ad essere prodotti in linea, il costo è sceso talmente tanto che tanto valeva buttarli e non tenerli. Quindi da questo punto di vista, quello che bisogna provare a fare è provare a mettersi in discussione, provare ad identificare quali sono nell'ambito della crisi le opportunità. E un'altra cosa che viene ricordata nel libro è che tutte le serie storiche si raccontano che l'80% della ricchezza passa di mano nelle grandi crisi. Quindi se c'è un'opportunità per chi nella scala sociale è sui gradini medio o medio basso di prendere un ascensore sociale, è proprio quella delle crisi, perché quando non, il mondo, la finanza, il sistema economico, il sistema sociale a sua volta non è in crisi, queste opportunità non emergono. Di lì il ragionamento che abbiamo provato a fare io e Barbato, fra l'altro un libro nato per gioco a pranzo, da una chiacchierata a pranzo, dove ci siamo chiesti che cosa possiamo mettere a disposizione in termini di consigli e di suggerimenti soprattutto ai giovani per provare a sopravvivere nella crisi. Deiana, adesso la prendo un po' in giro, lei lo vedo perché ce l'ho sotto gli occhi, ha un curriculum che, come direbbe mia zia, è lungo quanto una quaresima. Le posso chiedere se nel corso della sua vita professionale ha adottato anche questo approccio sulla sua pelle direttamente? Ci sono stati dei momenti di difficoltà che lei ha utilizzato per magari cambiare radicalmente percorso, per approfittarne, per imprimere una svolta alla sua carriera professionale? Ma guardi, ha toccato un altro punto fondamentale. In fondo noi possiamo fare altro, sia io che Roberto, che raccontare un pezzo della nostra esperienza. Io sono un ibrido che ha cambiato tanti posti di lavoro, io sono stato in aeronautica militare, in poste, al CNEL, nel pubblico, lavoro in banca, e quindi da questo punto di vista quel minimo di contributo che riesco a mettere a disposizione nasce anche proprio dalla logica di aver vissuto sulla mia pelle momenti di crisi. Io sono convinto che i momenti di crisi siano parte fondante della nostra vita umana, la crisi adolescenziale, le crisi matrimoniali, le crisi lavorative e via dicendo, sono dei momenti che noi dobbiamo considerare anche se a fatica standard e da cui dobbiamo provare a far emergere le nostre potenziali qualità migliori. Allora, intanto stavo un attimo così distraendomi anche con alcuni dei primi messaggi dei nostri ascoltatori che stanno arrivando, prima magari di ascoltare anche qualche brano tratto da questo libro e prima di dare la parola ai nostri amici che vogliono intervenire, che ci seguono da casa e vogliono intervenire appunto in diretta all'800240024. L'ultima domanda scomoda, Deiana, gliela devo fare perché lei in questo momento è anche un dirigente di un grande gruppo bancario italiano. Questa crisi, che è stata comunque abbastanza determinata anche dal sistema finanziario, non ha fatto venire la tentazione di ricambiare di nuovo professione, lasciare la finanza? Insomma, questa crisi che cosa le ha suggerito? Poi andremo a tutti i suggerimenti che invece arrivano dal libro. Probabilmente un suggerimento che c'è anche nel libro è il fatto che bisogna acquisire un'educazione finanziaria a tutti i livelli. Noi capiamo come ci dobbiamo alimentare, capiamo come dobbiamo modificare le nostre abitudini, i nostri stili di vita per vivere di più. Dobbiamo anche capire che i soldi sono un pezzo della nostra vita, uno dei più importanti per certi versi, e dobbiamo imparare in fondo anche a gestirli. Quindi da questo punto di vista, insieme a pochi altri, diciamo così, piloni di riferimento della nostra costruzione, anche l'educazione finanziaria è un pezzo importante dei nostri processi di crescita, anche perché, come è scritto nel libro, forse noi non ci interessiamo delle borse, ma come dimostrano i fatti, le borse si interessano di noi. Infatti, lo abbiamo appreso in questi ultimi anni sperimentandolo sulla nostra pelle. Anche i più totalmente disinteressati alle dinamiche finanziarie hanno dovuto invece prendere atto che la finanza condiziona pesantemente la nostra giornata, la nostra quotidianità, le nostre scelte, perché altrimenti per esserne distaccati dovremmo solamente andarcene su un'isola deserta e forse anche lì potremmo essere raggiunti. Ci sono alcuni ascoltatori che ci scrivono, per esempio, per fare soldi nei periodi di crisi andarsene dall'Italia potrebbe essere una buona idea. Massimo ci scrive, è un consulente che mi ha scritto anche attraverso altri canali e mi racconta e mi ricorda ancora come sai io ho abbandonato un posto da dipendente a tempo indeterminato in un grande gruppo assicurativo, mi sono lanciato a fare il consulente finanziario indipendente, qui stiamo parlando naturalmente di professionalità particolari, ma devo dire, poi ve lo leggo perché anche su questo punto ho preso molto in giro Angelo Deiana, che c'è in un capitolo del libro una lunga lista di altre idee di avventure professionali che si potrebbero intraprendere, e quindi anche chi è a caccia di idee può utilizzare il libro per così dare una veloce lettura di questa lista e ci sono lavori assolutamente normali e che però magari non ci è venuto in mente di prendere in considerazione. Poi ve li leggo sicuramente molto volentieri. Deiana, tra l'altro stavo pensando e anche leggendo un po' le prefazioni, le avete affidate a figure che nel campo imprenditoriale italiano sono molto note. La prima è firmata da Mario Resca, anche se io me lo ricordo per la verità perché gli rompevamo un po' le scatole quando era il commissario straordinario del gruppo Cirio. Poi un'altra prefazione è stata curata invece da una persona notissima e alla quale siamo molto affezionati noi, che è quella di Giovanni Rana, che è un imprenditore di successo in un campo molto tradizionale perché è quello alimentare, ma che ha sperimentato anche all'interno della sua azienda ogni giorno l'innovazione, quindi anche scegliendo magari il lavoro più semplice possibile ci può dare l'opportunità di come dire, guardare ai mercati con una visione di innovazione. Deiana. Assolutamente. Il ragionamento sul quale abbiamo basato la scelta delle prefazioni e delle introduzioni è quello per cui anche business, settori di attività, professioni relativamente semplici possono condurre al successo, soprattutto nei momenti di crisi. La scelta di Rana è una scelta importante perché è un campione dell'italianità, ma anche e soprattutto perché è una persona, un imprenditore che ci ha messo la faccia. E questa, secondo me, Roberto, è una cosa fondamentale, così come Resca è un ibrido, Cirio, McDonald's, piuttosto che beni culturali, vuol dire riuscire a transitare fra settori diversi cercando di sfuggire sempre in questo caso alla crisi, così come a proposito della notazione che faceva sul consulente che è andato via dall'Italia, non è detto che andare all'estero sia per forza un fattore di successo, dipende da quello che ognuno vuole fare e dipende da quello, perché questo è uno degli altri piccoli consigli che noi diamo nel libro, dipende dal settore su cui punta. Ci sono dei settori che all'estero vanno meglio e allora probabilmente per i giovani che hanno, diciamo così, una dimensione da cittadini globali, andare all'estero probabilmente non è come per un cinquantenne che naturalmente verrebbe sradicato da una serie di ambiti relazionali. C'è un momento, tutto da quello che vogliamo fare. Certamente, c'è un momento giusto per tutte le cose, anche se devo dire la verità, soprattutto per i ragazzi che magari escono dall'università e non hanno avuto modo di farlo nel corso del percorso universitario, forse un'esperienza all'estero, ancora prima di collocarsi nel mercato del lavoro del proprio paese, secondo me oggi come oggi è fondamentale. Quindi, come dico io spesso, a volte mi capita anche di incontrare dei consessi universitari, parlo molto spesso con i ragazzi. Se non siete ingabbiati dalla famiglia, perché qualche volta il problema è anche lì, cercate di guardare al di fuori del vostro orizzonte limitato e andate un po' fuori, perché sicuramente sono tutte esperienze di vita che poi possiamo ritrasmettere anche nel percorso professionale che scegliamo. Lo dice una che non ha avuto l'opportunità di farlo e che oggi si morde un po' il gomito. Però allora, che cosa facciamo? Sentiamo l'ascoltatore Roberto oppure andiamo con la pubblicità? Sentiamo Francesco da Bologna, quindi ancora prima di sentire i brani del libro animiamo la nostra trasmissione con le vostre esperienze concrete, che sono sicuramente quelle che apprezziamo di più. Francesco, buongiorno da Bologna. Buongiorno. Ci racconti buongiorno. Tutto, siamo assolutamente curiosi. Sì, confermavo che io facevo un lavoro quindi nel campo dell'automotive, l'ho fatto per 25 anni, poi a un certo punto ho smesso e ho inventato, diciamo così, brevettato un accessorio. E le difficoltà che ci sono che in Italia purtroppo se non hai gli amici, se non conosci, ti affidano sempre a questo info@ azienda.it e poi vivi alla mail e invece all'estero questo non succede. Quello che noi facciamo in 6 anni forse loro lo fanno in 6 mesi. Quindi Francesco, lei tra l'altro ha toccato anche un altro punto che avrei voluto affrontare poi con Deiana, anche la frequentazione dei posti giusti per portare avanti le proprie idee non è un aspetto trascurabile, non è un aspetto secondario, trovarsi al posto giusto nel momento giusto, riuscire a capire anche qual è la relazione giusta da coltivare per poter portare avanti la propria idea sono aspetti fondamentali e sono toccati nel libro. Se analizzassimo le principali serie statistiche, scopriremmo subito una cosa molto interessante. Nelle maggiori crisi finanziarie ed economiche di cui si abbia memoria, circa l'80% del denaro passa di mano, ovvero passa da chi era molto più ricco a chi lo era molto meno. Ad esempio, alcune grandi multinazionali che oggi sembrano invincibili hanno visto la luce durante la crisi del 1929. Le crisi, ormai è chiaro, sono momenti dove potenzialmente si annidano tante opportunità. La crisi che sta colpendo l'economia del pianeta è molto forte. Tutti gli economisti stanno sprecando fiumi di parole per dimostrare quanto è stata, è e sarà dura, mentre i media raccontano quotidianamente quanto ci farà ancora soffrire. Non tutti dicono che però solo grazie alle grandi crisi i ceti medi e medio-bassi hanno la possibilità di fare un salto economico e sociale. Siamo immersi in un sistema che ciascuno di noi, in quanto componente delle società in cui viviamo, contribuisce a sollecitare in termini di innovazione, perseguite e ottenute indipendentemente da luoghi e modi di produzione, locali, globali, originali o imitati, di un lavoro incerto e rischioso, oppure di un rapporto di lavoro sicuro. A partire da questi primi, sintetici scenari, appare chiaro che il posto di lavoro fisso non può più essere un obiettivo, ma diventa prevalente l'obiettivo della continuità professionale, il perseguimento di una competenza e il suo aggiornamento, perché vengono e verranno sempre più premiate la specializzazione e la capacità di renderla applicabile in modalità e luoghi di lavoro diversi. Ed era un brano tratto dal libro che abbiamo scelto di presentarvi questa mattina, Come fare soldi nei periodi di crisi, scritto da Angelo Deiana e Roberto Barbato. Trovare lavoro, cambiare professione, fare business, trasformando le crisi in opportunità, è edito dal gruppo Sole 24 Ore. Vi assicuro che il gruppo non mi ha obbligato a presentarlo. È piaciuta molto a noi l'idea di così individuare tutti quegli stimoli che possono essere necessari a quelle persone che adesso o magari hanno perso il posto di lavoro, perché dobbiamo parlare anche di queste persone, o chi ce l'ha e magari vuole cambiare perché magari si sente un po' sotto pressione, perché magari ha una vocazione, un talento, non sa come metterlo a disposizione degli altri, della comunità, del mercato. In questo libro ci sono tante idee anche da questo punto di vista. E con noi questa mattina uno dei due autori, appunto Angelo Deiana, gli volevo chiedere che cosa pensava della testimonianza che abbiamo ascoltato da parte dell'ascoltatore precedente. Aveva un posto di lavoro fisso, ha deciso di studiare e ha brevettato un nuovo accessorio, da quello che ho capito, nel settore dell'automotive, però lui dice insomma, rispetto per esempio ad un'altra realtà come potrebbe essere quella americana, qua i tempi sono sempre lunghissimi e credo che anche la frequentazione dei posti giusti possa rappresentare a volte o un deterrente alla propria iniziativa a non mandarla avanti, oppure a una possibilità per questa. Deiana. Non c'è dubbio, il tema è che evidentemente il nostro paese è un paese dove, ma qui non dico una cosa nuova, la burocrazia è comunque, tra virgolette, un peso importante ed è un peso qualche volta che lavora come deterrente anche a chi si vorrebbe mettere in gioco con un'idea imprenditoriale, anche a chi vorrebbe cambiare, perché naturalmente cambiare e poi trovarsi imprigionato in una rete di lacci e lacciuoli è veramente complesso. Oltretutto la notazione che si faceva a proposito della frequentazione dei posti giusti è una notazione importante, probabilmente non si tratta più, questa è un'altra delle riflessioni del libro, di posti esclusivamente fisici. Ecco, no, tra l'altro vorrei anche, mi scusi se la interrompo Deiana, ma per me questo è un punto molto importante, non dobbiamo dare al tema della frequentazione dei luoghi una connotazione completamente negativa, perché abbiamo così forse nella nostra immaginazione l'idea di frequentare il salotto dei politici affinché ci possa aiutare a portare avanti un'iniziativa piuttosto che un'altra. Non intendiamo questa, almeno non è questa l'idea della frequentazione che voi presentate nel vostro libro. Il tema è allargare proprio il nostro giro di relazioni per poter capire se ci può essere una persona che ci può sicuramente aiutare e far crescere, ma non nell'accezione negativa, e questo è molto importante. Assolutamente, ma questa è la nuova fase che stiamo vivendo, questa è la nuova fase che con il titolo di un mio libro precedente si chiama di capitalismo intellettuale, dove il valore si sposta sempre più sulla conoscenza, la conoscenza intesa nel senso di competenza ma anche di relazione. Quante più persone sanno del brevetto del radioascoltatore, tanto più persone potranno farsi venire un'idea concorrente o un'idea aggregante, un'idea diversa, perché in realtà l'economia della conoscenza ha processi, ma qui diciamo una cosa dal punto di vista economico, diversi da quella del capitalismo precedente. Mentre il capitalismo precedente metteva insieme capitale e lavoro in quantità finite per generare un profitto, l'economia della conoscenza ha capacità accrescitive. Io racconto sempre questo aneddoto: se io ho una moneta e tu hai una moneta, io do a te la mia moneta, tu dai a me la mia tua moneta, alla fine del processo abbiamo tutti e due una moneta. Se io ho un'idea e tu hai un'idea, tu dai a me la tua idea, io do a te la mia idea, alla fine del processo abbiamo due idee. Quindi crescere, far accrescere i sistemi di moltiplicazione delle opportunità, in questo momento anche il web rappresenta un orizzonte straordinario da questo punto di vista, vuol dire avere la possibilità di condividere. Pensate all'open source, pensate al fatto che ci sono delle persone che mettono a disposizione del miglioramento del codice sorgente di Linux il proprio lavoro gratuitamente, perché il processo di condivisione è più importante del processo di detenzione pura dell'informazione. Tra l'altro, a questo proposito, a proposito anche di come si possono costruire le reti di relazione, voi avete dedicato una bella parte del vostro libro anche al tema dell'utilizzo corretto dei social network, non solo di Facebook ma anche di LinkedIn, tutti quelli che permettono di tessere delle relazioni professionali, e sono social network esclusivamente dedicati a questo. Allora, il mio capitolo preferito, come dicevo prima, è il capitolo 4, Superare la crisi, dove i due autori di questo libro si sono sbizzarriti anche ad elencare tutte quelle professioni, tutti quei lavori che magari potrebbero essere intrapresi, e non stiamo parlando di professioni stravaganti. Prima però di leggervene qualcuna, vorrei anche soffermare l'attenzione con Deiana su un altro aspetto molto importante che nel suo libro tocca, cioè quello della costruzione del piano B. Anche quando le cose vanno bene, è sempre meglio costruirsi la rete di protezione, un'ancora di salvataggio, un materasso, un ammortizzatore. Sentiamo allora questa parte del libro che è molto interessante. Tenere in considerazione le proprie passioni è fondamentale, ma avere una strategia è imprescindibile per ottenere risultati in tempi di crisi. Occorre avere le idee chiare su obiettivi, possibilità e skill di ciascuno di noi. Senza dimenticare che bisogna fare tesoro delle proprie conoscenze e saper sfruttare al massimo il networking. Anche le nuove conoscenze fatte in un momento di relax, magari davanti a un bicchiere di vino, possono dare nuova linfa vitale alla carriera professionale, rinvigorirla e magari portarla su strade ancora non battute. In poche parole, bisogna avere almeno un piano, una strategia ben studiata per raggiungere i propri obiettivi. Ancora meglio sarebbe avere un piano A, un piano B e magari anche un piano C. Sì, ma da dove partire? Non bisogna essere disoccupati per avere un piano B. Ci sono sempre più persone che, anche con una carriera ben avviata, si stanno dedicando a tracciarne uno. E i motivi sono i più disparati: inseguire i propri sogni, un lavoro non più soddisfacente, il desiderio di una vita migliore e più consona ai propri desideri. Allora, Deiana, mi ha fatto venire un po' di magone questa mattina leggendo questa parte del libro, perché oggettivamente è una questione alla quale io non ho mai pensato. Ho un buon lavoro, faccio la giornalista, lavoro per un grande gruppo, poi ho tanti interessi naturalmente al di fuori del lavoro, ma non ho mai pensato di poter coltivare uno di questi al punto da poterci costruire un piano B per la mia vita professionale. Quindi ho sbagliato completamente approccio, oggi magari ci comincio a pensare. Come faccio? Costruire il piano B è come fare l'assicurazione per la macchina o per la casa, vuol dire costruirsi un'assicurazione rispetto a momenti potenziali di crisi. Quindi il tema non è tanto e solo già pensare al cambiamento, ma provare a pianificare un investimento laterale, un pensiero laterale che ci costringa a prendere un po' del tempo che noi abbiamo a disposizione e provare ad investirlo su qualcosa che normalmente deve darci anche soddisfazione. C'è una frase chiave, che è una frase di Roberto Barbato, che secondo me rappresenta un po' tutto quanto il processo di analisi e cambiamento e supporto che vuole dare il libro. Perché? Perché quando si dicono queste cose, la prima domanda che noi ci facciamo è: e come faccio a sapere qual è il mio piano B? Perché quello è uno dei... Noi difficilmente abbiamo, diciamo così, capacità di autoanalisi preventive da questo punto di vista. Beh, però Roberto dice che non c'è bisogno di avere un consulente o di riferimento. Basta chiedersi che cosa pagheremmo per fare, se noi siamo in grado di pagare un prezzo per fare un lavoro. Significa che quel lavoro può rappresentare un lavoro, professione, business naturalmente, può rappresentare un orizzonte di riferimento sul quale investire una parte delle nostre attività, sia di formazione che di diciamo così investimento relazionale. Un'altra delle cose che venivano citate nel pezzo che avete letto del libro è il tema della continuità professionale. Tutte le statistiche dicono che noi, quantomeno quelli newcomers, i giovani di 18-24 anni che stanno entrando adesso nel mondo del lavoro, cambieranno almeno 7 posti di lavoro nel corso della loro vita professionale. Anche perché quindi, siccome camperemo tutti fino a 100 anni, hai voglia, e prima della pensione hai voglia, esatto, a lavorare, quindi almeno 7 anche poco, dico io, Dejana, 7 volte. Esatto, però quello che conta è non cercare il posto fisso, Dio, chi ce l'ha se lo tiene stretto e fa benissimo, ma cercare di costruire un percorso, e lì per esempio è uno dei punti chiave del pit stop alla carriera o alla vita, dove noi ci dobbiamo mettere davanti a uno specchio, un po' come faceva Steve Jobs, e chiederci che cosa abbiamo investito sulla nostra formazione o sulle nostre dinamiche di cambiamento. Abbiamo fatto un corso di inglese adesso a proposito della sua precedente affermazione sull'essere cittadini del mondo e fare esperienza all'estero. Da questo punto di vista, il cosa pagheresti per fare è, diciamo così, una domanda chiave che serve per evocare quelli che sono i nostri veri orizzonti, le nostre vere passioni, che sono quelle su cui c'è motivazione, e la motivazione è tutto. Vincono quelli che credono di potere. Fulvio da Milano, buongiorno. Lei era motivato a fare una scelta drastica nella sua vita professionale, come le è andata? Beh, io sono stato motivato molto, perché tra l'altro io sono un caso abbastanza eclatante, perché io ero un alto dirigente, io sono stato capo della comunicazione di TIM, di Telecom, di Piaggio, di Ferragamo, quindi di grandissime aziende. Quindi è un collega. Esattamente. E ci saremmo pure incontrati qualche volta allora. Ci saremmo anche incontrati diverse volte, lavoro in parte anche con voi, con i vostri capi. Allora, io ho mollato tutto per fare il consulente, e mi fa molto piacere sentire parlare di pensiero laterale, perché nel mondo della comunicazione e in generale nel lavoro, 3 sono le cose fondamentali: la tua preparazione professionale, cioè quanto sei capace di fare una cosa, e questa è la prima, e se non sei capace devi imparare, devi studiare e devi apprendere di più. La seconda cosa è il bagaglio di relazioni professionali, quindi virgolette i biglietti da visita, come hai gestito le tue relazioni nella tua vita, come sei stato capace di contribuire al rapporto personale negli affari, nel lavoro, anche semplicemente nella relazione. E la terza cosa è il pensiero laterale, cioè sei in grado di avere una visione laterale del problema e quindi portare soluzioni che siano soluzioni diverse. Se queste 3 cose tu le hai fatte, e se non le hai fatte falle, comincia ad esercitarle. Il percorso, per esempio nel mio caso di consulente, è stato un percorso straordinario, perché con la crisi che abbiamo, dove le grandi aziende, ma anche le piccole aziende, non sono più disposte a spendere milioni di euro per chiamare le grandi agenzie, i grandi consulenti, i grandi centri media, si affidano a professionisti che dal telefono, io lavoro dal mio telefono, dal telefono e dagli incontri ovviamente che faccio, riescono ad ottenere quei consigli professionali e soprattutto riescono a fare quella formazione alle risorse interne che in azienda ci sono. Quindi io mi trovo anche molto spesso a fare educational, cioè a spiegare e a raccontare alle risorse interne alle aziende come utilizzare al meglio la loro professionalità. Certo. E vengo pagato per questo, ed è molto più, vi assicuro ascoltatori, molto più interessante lavorare per tante realtà diverse e vedere ogni giorno delle cose diverse, che essere seduti su una fantastica scrivania con poltrona laterale e pianta tripla, dove tu sei seduto a parlare sempre delle stesse cose. Non ci poteva essere una testimonianza spontanea più adeguata per spiegare lo spirito di questo libro. È arrivato l'arrotino, arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli. L'ombrellaio, donne, ripariamo cucini a gas. Allora, adesso qua chiaramente ci siamo subito messi a ridere, perché Roberto Scaltritti, che è seduto a stanto a me, non ha appena sentito tutti i suggerimenti di questa mattina, è il collega che mi assiste tecnicamente quest'oggi, ha già pensato al suo piano B, dice: voglio fare l'ombrellaio. Ma questo è un business che non morirà mai. Quanti di noi hanno sicuramente un pezzo rotto in casa e magari passa il professionista che ci dà una aggiustata all'ombrello rotto. Allora, Deiana, l'ho presa un po' in giro negli ultimi minuti, lei l'avrà capito, ma questo era per così anche anticipare quel famoso elenco di professioni che si potrebbero intraprendere senza peraltro neanche dover mettere a disposizione come capitale iniziale cifre insostenibili, no? Adesso non dico l'arrotino, abbiamo trovato questo contributo per sorridere questa mattina, ma lei a pagina 114 del libro ha fatto una lista molto dettagliata. Io mi sono appassionata alla yogurteria, alla palestra, che è l'altra mia grande passione dopo il lavoro, e chissà che il mio piano B non me lo metta a costruire proprio in quel settore. E allora, effettivamente, come spunti per nuove attività non bisogna certo andare chissà a pensare a quali settori in cui cimentarsi, Deiana. Nel libro c'è un capitolo dedicato a chi ha messo in pratica il proprio piano B, così come il radioascoltatore di prima, e che invece è partito da lavori di altissimo livello per avere una catena di, per diventare responsabile di una catena di gelati. Cioè, non c'è bisogno di avere orizzonti straordinari. Roberto, per esempio, il mio coautore, è una persona di ambizioni importanti, ma io penso che per esempio il mio piano B potrebbe essere, adesso continuando a scherzare come prima, quello di fare il portiere di un grande condominio. Mi metto lì dalla mattina alla sera, c'ho la casa e nel frattempo scrivo libri. Quindi da questo punto di vista... Piano B e C contestuali proprio ci sono. Esatto, esatto, prendo anche uno stipendio normalmente, per cui al di là della provocazione degli ascoltatori sul fatto di scrivere un libro su come fare i soldi nei periodi di crisi, che abbiamo, a cui abbiamo tarpato le ali all'origine, perché i diritti di tutti i nostri libri sono devoluti, diciamo che il rapporto importante che dobbiamo instaurare con noi stessi e con il sistema circostante è quello di cercare di capire come mantenere la nostra carriera, il nostro business, e cercare di capire anche attraverso magari il libro è fatto di tutta una serie di checklist che serve magari di cose semplici, così come quella che lei leggeva prima a proposito degli spunti per le nuove attività, ma che probabilmente non ci vengono in mente così quickly, rapidamente. Quindi dopo li leggiamo, Deiana. Voglio sentire rapidamente un altro paio di ascoltatori, così vivacizziamo ancora di più la nostra trasmissione con le testimonianze dirette. Non mi ero accorta che i proventi del libro venissero devoluti, dico anche a chi, all'associazione Onlus World Friends, Amici nel Mondo, non so che cosa faccio esattamente, però insomma complimenti anche per questa idea. Roberto da Verona, buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno al suo scrittore. Io la domanda, guarda, è molto molto semplice. E una delle possibilità, però molto vaghe, che viene data è quella di mettersi su internet a lavorare. Domanda: esiste un lavoro su internet onesto in cui si possono prendere quattro soldi per tirare su il regime della famiglia? Uno stipendio. Roberto, la ringrazio. Beh, certo, diciamo, questa intanto è una considerazione molto generale. Mi veniva in mente qualche giorno fa, stavo facendo una riflessione con la mia collega di lavoro, che parlandomi dell'attività commerciale di suo papà, che in questo momento è un po' in difficoltà, mi diceva: devo trovare il modo per commercializzare un po' i beni che produce su internet. E devo dirvi che, sentendo un po' di consulenti, l'idea che ci è stata data non era poi così costosa, era anzi molto semplice, e quindi effettivamente basta qualche volta guardarsi intorno. Però qui partiamo proprio dall'ABC. Deiana, come possiamo rispondere a Roberto? Utilizzare internet, che oggi è lo strumento senza il quale nessuno di noi può vivere, perché non ce la facciamo più, e quindi effettivamente può diventare quasi per tutti uno strumento fondamentale per la propria attività professionale. Ma ci sono tanti lavori su internet. Guardate, i motori di ricerca, se voi mettete poche parole chiave come cercare lavoro sul web, restituiscono fiumi di link dove ci sono opportunità, qualche volta semplici, qualche volta più complesse, più ad alto livello. Intanto bisogna saperlo utilizzare bene, perché ci sono tanti programmi, non è che uno si apre un qualsiasi sito internet, il fatto di saper magari navigare con la rete rappresenta, come dire, la professionalità fondamentale. Bisogna utilizzare tutti i programmi, quindi intanto capire se si ha anche una capacità adeguata di utilizzare il personal computer oltre che internet. Notazione fondamentale: per andare nel mondo impariamo ad usare la macchina, probabilmente per andare sul web dobbiamo imparare ad usare bene internet e troveremo tante opportunità, soprattutto attraverso quello che dicevamo prima, che è quello strumento straordinario, che è quello dei social network. I social network sono un sistema di moltiplicazione delle opportunità, perché ci mettono in contatto con una serie di persone che noi fisicamente non potremmo conoscere, quindi offrono, attraverso un uso adeguato e molto prudente, questo è un altro dei consigli del libro, dei social network, possiamo moltiplicare le opportunità, far vedere le nostre abilità, e non c'è bisogno di fare i consulenti ad alto livello, ma come c'è scritto nel libro, anche chi non ha competenze, anche chi non ha studiato, anche se naturalmente studiare e formarsi è il principio numero uno da qui al futuro, anche chi non ha studiato può trovare la sua strada, può farsi vedere, farsi magari scoprire per un reality show, adesso tanto per usare una... No, non mi scada così alla fine della trasmissione. ma il problema è che non è un problema di scadere, è un problema di trovare ognuno la propria opportunità. Vabbè, io penso che proprio quella del reality show non sia quella da enfatizzare tanto, anzi la demolirei abbastanza, nel senso che poi se uno vuole farsi strada andando in televisione, e so benissimo che molti giovani hanno intercettato quella come unica opportunità per farsi conoscere, direi che però, Dejana, spero che non l'abbiate sponsorizzata nel vostro libro. No, assolutamente, è un'opportunità che però racconta del fatto che bisogna cercare, come diceva il radioascoltatore di prima, di pensare lateralmente il proprio modo di essere, il proprio modo di stare nel sistema. Allora, vabbè, potremmo aprire chissà quale tipo di discussione su questo argomento. Adesso direi che possiamo andare ad altri ascoltatori che hanno trovato nuove opportunità professionali. Vittorio da Torino, mi piacerebbe molto sentire come ha fatto lei, che adesso fa marketing per salute e benessere. Sì, buongiorno a tutti, velocemente. Sì, io ho lasciato un posto fisso perché mi sentivo un po' stretto in quei panni, perché pensavo appunto di poter fare un qualcosa di più, di valere un po' di più di quel posto fisso. Ho fatto diverse cose. In un primo momento di questa trasmissione ho pensato appunto che i vostri discorsi potevano essere rivolti solamente a delle persone con delle lauree, con dei mestieri, con delle esperienze di direttori, eccetera, eccetera. Invece ho capito appunto che potrebbe essere rivolto un po' a tutti come me. Io ho la licenza media e praticamente sentendo parlare del piano B ho afferrato un attimo l'idea di poter telefonare e poter esprimere la mia esperienza. Io mi sto preparando, ho preparato il mio piano B con un sistema di multi-level marketing che probabilmente nella nostra Europa è ancora un po' non tanto conosciuto rispetto America, Giappone, uh-huh, eccetera. In questo campo qui, cosa, appunto rivolgendo proprio per il discorso del periodo di crisi, non servono investimenti, pur continuando a fare quel lavoro che attualmente piace. Io faccio l'autista in questo momento, mi dedico delle ore al multi-level marketing, comunque con dei risultati eccellenti, anche perché si tratta solo di informare le persone che non esiste solo il negozio sotto casa oppure la grande distribuzione. Quindi prodotti di salute e benessere appunto venduti attraverso altri canali che non siano esclusivamente, come diceva lei, il negozio, un po' l'Herbalife della situazione. Vittorio, mi passi il termine, è quello. La concorrenza. No, era anche per capire proprio la dinamica di distribuzione. Vittorio, grazie, complimenti per il suo coraggio, per la sua intraprendenza. Ce la facciamo anche a sentire un altro ascoltatore, Davide, che aspettava da un po'. Rapidissimo, Davide, se ce la fa, da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno, molto velocissimo e forse sono anche fuori tema in un certo senso, ma era relativo alle consulenze e alla crisi. È un'arma a doppio taglio, diciamo, quello del mercato del lavoro di adesso, secondo me, perché sebbene crei, diciamo, delle opportunità per chi ha maggior professionalità, si creano anche molti imbrogli, perché la fame di lavoro in sostanza crea poi questo mercato, che poi può essere anche molto fasullo delle volte, di promesse che poi vengono disattese. È quella che secondo me è una cosa nella quale bisogna stare molto attenti. Manteniamo dunque i piedi per terra. Davide, la ringrazio anche comunque per questa sua sollecitazione che, come dire, ogni prospettiva di cambiamento non ci faccia anche coltivare sogni inutili. Deiana, noi dobbiamo chiudere, abbiamo però 20 secondi di tempo per esprimere un'ultima raccomandazione. C'è tutta la lista delle azioni da fare prima di trasformare una passione in business e controllare i propri requisiti personali, trovare un buon commercialista, decidere la forma societaria ed altri suggerimenti. 5 secondi per il suo ultimo così commento per i nostri ascoltatori. Ma io credo che il futuro sia rapidissimamente quello di mettersi in gioco. Mettersi in gioco è probabilmente l'arma assoluta, la misura non convenzionale di cui parla il governatore della BCE per quanto riguarda questo periodo. La devo salutare purtroppo perché siamo in chiusura, magari la rinvitiamo un'altra volta. Come fare soldi nei periodi di crisi, Angelo Deiana, noi ci sentiamo lunedì, buon weekend.